Santiago no, pronto. Già va bene, dai. Già va bene. Perché ce ne avevo un'altra ringo piazzato quella. Un poco più fini è dell'altra, però già va bene, dai. Perché quella là mi dava troppo stazionare, l'avevo con te, ho capito che cosa era, si è mollato un coso. Cazzo, ieri mi ha fatto spaventare, mi ha fatto. Mamma mia. Adesso dovrebbe andare bene, è a 1-1. Cazzo, va alla grande. Mi ha fatto spaventare un bel ieri, cazzo ci saliva a più di due. Cazzo, il baracchino andava male. Cavani tutto, cavani, ho visto che cosa era, adesso quella di la aggiusterò con calma. Sì, infatti, dai. Da Santiago quasi 9 a 9-10 modulato, È buono, vero? Provo ad attaccare a vedere quanto arrivo, Ma un po' meglio dell'altra, No, ma per me è rotta, provo ad attaccare. Beh, un attimo che scambio il BL. Che maranno. Devo cambiare anche apparecchio. Ma questa prova non vale allora. Tu la prova devi fare con lo stesso apparecchio, non è che cambia apparecchio, metti l'aiuto o meno, capito? O cambia antenna. Tutto con la radio devi fare. Sì, uccisci un umano lineare. No, devo fare con l'altra radio come era prima. Troppo ingresso c'è. Ho capito, ma allora tanto le prove si fanno con una radio solo e dai il watt che vuoi dare con una radio, poi se vuoi attaccare lineare dici e con questo quanto incrementa, quanto aumenta? Cioè, proviamo a vedere quanto incrementa con l'amplificatore. Caso un attimino che scambio. Andate. Guarda a vedere com'è che con l'amplificatore. Adesso questa radio qua fai quasi 9.18, non ci arrivi a 9.20, però i picchi non sono positivi, sono fissi. Che cazzo, dai. Ah, però l'importante è che vada bene. Sono contento, dai. Magari ho incrementato pure, bisogna chiedere a Claudio quando entra. Mi pare più grosso che ci vira a me. Sicuramente ho incrementato un po'. Sì, se te l'ho detto, ma allora tu, con l'altra radio arrivavi quasi 9, da quasi 9 a 9,5 modulati, con questa invece sì, quasi 9,18, però fissi. Ti aggiungo anche che hai un rumore di alternata, Vabbè, quello lo so perché mi sta rompendo il cazzo, tu cazzo di maradizione che ti venga. Guarda a vedere. Va in oramara. Vabbè. Comunque, quello lo so, l'ha sempre fatto un po', Perché devo fare la massa a terra, devo farle. Ti venga Nigego. Guarda a vedere se va. Sì, ma è un rumore di alternata. Lo so che c'è il rumore d'alternata, quello me l'ha sempre fatto. Vabbè, se a te piace, se riesci a eliminarlo è meglio. Proprio tu, dai, che sto andando a fare carica, ti saluto. Sentiamo stasera se coincide, dai. Ciao. Sì, ok. Guarda dove si è eliminato adesso. Ce l'hai ancora. Molto di meno però. La massa è dove trovare un coso per fargli fare massa. La massa che tiene in varia, nulla duera. Brutto animale schifoso. Ecco cosa era. L'UBL Mulladu era. Vaffanculo, facendo prove e provette. Ok, va. Adesso dovrebbe andare bene, va. Thank you. rampa di tutto. A te Gallai. A te Andrò, buongiorno. Sì, buonasera. Ehi, ho cambiato l'antenna, com'è? Ho sentito prima, ma stavo leggendo un articolo e non potevo rispondere. Allora, il tuo segnale è il solito, era come con l'altra. E l'altra che danno aveva? Cosa si è mollato? Quell'affare dove c'è, vabbè, la giusterò appena che trovo una vite. Invece quell'affare dove entra, capito? Ce l'hai presente? C'è un rifetto, c'è lì, lo sai cazzo è. Lì mi si è mollato, dove c'è il coso? Sì, quei rivetti, i battini, come le puoi chiamare. Si mollano prima di subito. O peggio, dove c'è quell'anello di nero, quell'anello di isolatore sarebbe. Lì ci hanno messo un punto di silicone o di colla che si, col vento si stacca subito quello. È un'antenna fatta in zone dove non esiste il vento, e cioè nessuna, non va bene da nessuna zona. E quindi tu adesso hai messo l'altra Ringo, quella che ha lo stilo un po' più sottile, così è. Kappa, quella che mi ha dato mio padre. Ho messo quella lì, cazzo, ma che è grossa però, c'è molto più materiale di questa. Sì, qua sei, non dico 9,25, ma circa, dai, tra 9,5. Poi vabbè, quando attacchi arrivi a 9,30 anche, circa, dai. Tutto lì, io mi sono alzato un bel tardi, mamma mia. Tanto oggi è domenica, non devo uscire, non devo far nulla. È giornata del Menga. Almeno sabato scorso e domenica scorsa eravamo in campagna, siamo fatti la rostita sabato. Vabbè, sabato la rostita, domenica invece roba cucinata al fornello, capito? Abbiamo preso bella l'aria fresca, state un po' all'aria aperta. Mi sono divertito di più lì che non a starmene qui a Sassari, porca miseria. Capo, ti capisco, dai. Allora, l'unica cosa che mi rancora tantissimo è che non ho più stazionario. 1-1 così. Se vado addirittura sul 41 o sul 45 non si muove neanche. Ottimo. Cosa hai fatto? L'hai ingrassata o hai messo vulcanizzante? Cosa ci hai messo contro l'acqua? Tutta ingrassata. Io sempre avrei preferito il vulcanizzante. Ti volevo chiedere, ma l'avevi visto quel manuale di istruzione che ti avevo mandato della Ringo? Sì. Che l'avevo visto. Quello è un peccato, quello lì io l'aggiusto, gli metto la vite nuova dentro, me la taro, come l'ho tarata questa qua, che avevo ragione io. Cazzo, poi a pezzo me l'ho tarata bene. E cazzo lì se funziona l'antenna. Però che quello è netto, bisogna stare attenti a non sbagliare gli inizi, se no è un casino. Cioè, se sbagli poco, cazzo ti da stazionaria. Io l'ho tarata a tentativi perché il cavetto va verso sinistra, no? Per non fargli prendere direzioni forzate del cavetto, parlo della Ringolem, l'avevo messo insomma nella posizione come in tutte le foto e ho accorciato lo stilo, però era una rottura. Stazionari altalenanti in base alla mia taratura, naturalmente. Poca resistenza al vento e quindi dopo un anno mi sono rotto le balle, l'ho tolta e ho messo la Energy. Che la Energy comunque è sempre un'antenna, non è a livelli di mantova, questo sia chiaro. e ti dirò che per essere quella l'antenna che è a Sassari ce la fanno pagare anche troppo. 90 euro non sono pochi, magari la ordini da fuori, risparmi magari 10 euro, seppure, forse, non, bisogna guardare i prezzi attuali. Io l'ho voluta a Sassari perché volevo vederla dal vivo, capito? Volevo vederla aperta la scatola, era nella busta, ho voluto vedere lo spessore bobina, tutto, l'ho voluta vedere dal vivo. E perciò l'ho voluta comprare qua a Sassari. Minchia, cazzo, tu mi arrivi una cannonata, mi arrivi. Sì, per la fondo scala qua, sì. Ma secondo me cazzo ha migliorato anche il segnale, boh. Io mi sto accorgendo che questa, e questa è molto più vecchia di quella là, molto molto più vecchia, perché se tu mi stai dicendo che l'ultima che ci avevi era di quella maniera là, cazzo, e questa è più vecchia, cazzo manco si muove, cioè 1,1, cazzo, prima era 1,5 euro, infatti l'apparecchio è anche freddo. La lingua originale addirittura, il progetto originale prevedeva un solo giro di spirale, capito? Non due giri o tre, adesso non mi ricordo, mi pare siano due completi i giri. Il progetto originale comportava un giro di spirale, capito? E boh. E il resto era tutto in lunghezza, lo stilo, capito? Invece in questa Ringolem gli hanno messo un bel di bobina in più, come lo puoi chiamare, adattatore di, adesso non mi ricordo il termine, però bisogna accorciarla troppo di stilo. Hanno stravolto il progetto originale che era validissimo. E vabbè, pazienza. Poi, cosa volevo dire? Che vendono sempre la Venom su eBay, su Amazon. La Venom, mezz'onda e penso anche 5 ottavi ci sia, però cioè alla fine non ne prendo io, cosa la tengo di scorta per fare cosa, per andare dove, ma poi interpellando conoscenti, amici, non ne vogliono sapere niente di Baracchino, non tu. Dice là, per carità, diciamo, non vogliamo sapere né di cavi da passare, né di antenne da mettere sul tetto, poi casini col condominio, non vogliono saprice, poi è anacronistico, hanno detto, è anacronistico, con tutti i sistemi che ci sono per comunicare, alcuni anche simili al baracchino, tipo Cibitalk, dice non ha senso stare a mettere cavi, alimentatori, antenne, ui, e un po' hanno ragione, vabbè. Cosa vuoi fare? Già può essere vero, però io sto constatando che questo è migliore, vedo il segnale anche attenuato, manco appena, secondo me quella là c'è qualcosa che non va, cioè sicuramente c'è qualcosa che si stava attaccando, mi stava dando di petto, quella lì vuole riguardata, vuole vita, per adesso ci lascio questa, ci lascio perché va bene. Cazzo, sai quanti anni ce l'avevo? Minimo ce l'avevo quasi 10 anni in magazzino. Eia, dunque, allora la Ringo buona era quella della eco antenne, che non esiste più la eco antenne, no, ha chiuso, cioè tutti quelli che facevano roba buona, Sigma, che faceva la Mantova, la eco antenne, che faceva tante cose buone, tutte chiuse. Rimane la Lem che fa ogni tanto delle sonore cagate, a dirla tutta. Che dire? Sì, quella delle antenne andava bene, però pazienza, non esiste più la fabbrica, non ne trovi più. Sto perdendo il filo del discorso, dove volevo arrivare però. Mi ricordo che anni fa qualcuno l'aveva provata anche con radiali, la Ringo della Lem, lo sai, gli aveva aggiunto dei radiali e aveva notato dei miglioramenti, però non mi ricordo se erano in ricezione o in trasmissione, perché come saprei la mezz'onda non ha bisogno di radiali, anzi non gli servono affatto, eppure qualcuno ha fatto la prova e ha notato un qualcosa in più, un miglioramento. Magari perché diventano 50 tappi poi. No, ma questa che io sto provando, mi sono accorto che è un altro modo. Cioè, a me mi sembra un altro modo, anche in ricezione, cazzo, anche attenuandoti non mi arrivavi così forte, la verità. Vuole rivista, perché ha avuto quel problema, vuole rivista quell'antenna. Questa mi sono messo, cazzo, mi sono dato pace. Mi sono messo, piano piano, gli ho tolto le stazionarie. Agitava, si era arrabbiato. Cazzo, avevo ragione. Cazzo, questa va che è una bomboletta, va. Purtroppo sicuramente chissà che cazzo gli è successo lì. Il vento, cazzo, ieri mi sono gassucciato a rimane. Ha detto no, io domani ti negava a te. Ogni amare che ti venga. Infatti a pari che ti è freddo. Claudio, tu sei? Sì. Parvie, come ti arrivo? Ma Claudio, puoi parlare? Puoi parlare? Non ho capito se è lui davvero, ma c'è una voce come se si sentisse male. Non lo so. Comunque, fatto sta che mi era ancora a casa, prima erano 1.05. Cazzo, quando pioveva mi arrivavano anche 1.06, cazzo, ero sempre associato. Poi mi ha fatto quel difetto, ho detto no, io la smonto questa. E quella vuole fatta, come gli ho fatto questa? Poi abbaidata, terra da piano piano, basta andare, sempre andendo, da finché sei a posto, perché non ti dà più problemi. Sì, diciamo che se non ci fosse vento durerebbe pure la ringolem. Passi la pioggia, vabbè, la pioggia passi perché se la isoli molto bene col vulcanizzante, però non col grasso. Però è il vento che è meccanicamente deboluscia. Ma non lo stilo, non gli elementi dello stilo, però alla base dove c'è l'isolatore, quell'anello in plastica nera, quello è troppo debole. Infatti lo come vende, cazzo, faccia casigna e non che. No, questo no, non è possibile, no. Poi le stazionarie mi si salivano parecchio. Ma parecchio proprio. Adesso va bene. Non sa, cazzo, ma sono contento. Come cavolo si chiama? L'altra che avevo, che non ne avevo stazionaria. Adesso sono contento, già va bene. Questa vuole rivista con la calma, vuole tolto, li vuole messa alla vista, come qua. Uguale, non ho capito perché c'è quel rivetto, ma comunque lasciamo perdere. Perché sono fatte in economia, proprio in economia. Guarda che anche la Sigma, che faceva la Mantova 1, poi la Mantova Turbo, poi l'altra, come si chiama? No, Mantova 1, Mantova 5 e Mantova Turbo. Gli ultimi esemplari della Turbo, e l'azienda stava per chiudere, praticamente erano fatti più in economia, con materiali più di scarto, con fatti in economia, varie persone sono lamentate che non era più la Mantova Turbo appena era uscita, ma era fatta proprio così, per risparmiare al massimo sui materiali. E poi ha chiuso la Sigma italiana. Invece tuttora esiste la Sigma Eurocom, che però è inglese e fa quelle Venom del cavolo, che non è nemmeno lontanamente paragonabile alla Mantova, però non da ben detto. Non ha giù mai idratato, non ti so dire. Se l'avrei usata ti avrei detto è buona o è mala. Può essere che sia anche buona, niente di particolare. È buona, cioè, se vuoi antenne buone prendi le antenne ammiraglie Manto, Vassilio 827 alias Blizzard. Se con la Venom ti accontenti, diciamo che non è buona, diciamo che ti accontenti, è un compromesso che non tutti sono disposti a accettare. È già questa che ho io, vabbè, a me mi penalizza il cavo che sono 50 metri, per quanto sia cavo grosso, sono tanti 50 metri. Però la posizione non è malaccio qua, non è ottimale, ma non è nemmeno malaccio, tu sei molto più in basso. Vediamo se Claudio può riprendere. Claudio, ma è successo qualcosa? Claudio Sparvia. Non lo so. Sì, pure è come arriva con lo scala in occhio. Come da cultura un goccio. Mannaggia, che è un peccato, cavolo. Mi dispiace molto di averla tolta. Purtroppo se c'è quel problema adesso devo buscare la vite, la devo stare bene qua, tutte cose. Bisogna fare un lavoro particolare, bisogna farle. Vabbè, c'avevo questa nuova, me l'ha stabbato. Tanto Ed non idratava, cosa? Non ha mai buccio. Già va bene. Marco! Sì, entro adesso stacco, però è troppo presto, cioè io entro metà serata, se entro oggi vedo poi se andare in garage a controllare una cosa, quella povera moto che si starà riempiendo di polvere, e quindi non so se entrerò stasera. E qui niente, ti lascio e sentiamo, dai. Saluto tutti quelli all'ascolto e alle prossime. Ok, ciao Marco, ce la risentiamo. Alle prossimine. O stasera quando è. Prova un po'. 1, 2, 3, prova. 9,20 come prima. Ah, K, non 9,25, no. Ah, 9,20, sì. Prima arrivavo 9,25, mi pare, o no? Tacchi. K. Adesso faccio una prova attaccato a vedere. Un attimino che cambio il PL. 1,1 di stazionare. Via. Vorrà vedere com'è adesso? 25 K, va bene, sì? Sì, perfetto. E K, guarda, anche voi sono più forti, sto arrivando. C'è qualcosa. Vabbè, la controllo, perché è un peccato, e qui c'è grossa burro, cioè. È un peccato, guarda. Allora lì devo mettere una vite, la devo tarare bene. E poi ci può anche ripiazzare, però adesso ci lascio questa, poi vediamo. Non è quello il problema, la tattura non c'ha niente, la tattura che c'hai hai fatto da prima va bene, nella base dove c'è l'ossino, nella basetta di sopra, se tu guardi c'è una specie di spugnetta nera, c'è, è fatta di tipo, sembra silicone ma non lo è, devi metterci, devi fare un foro di lì, la risaliva per appena sullo stile, perché se ne è sceso in pratica, devi fare un foro con la vite, devi mettere una vite con l'altro vulcanizzante, ma tranquillo che l'altro non ti dà più problemi. Se io mi gioca sul sardo a rimane, ho detto no, cavano il tutto, facciamo i bravi, cioè, mi sono spaventato ieri, adesso vai, adesso con questa dovrei aver risolto un po' finché dura, e poi con la calma e no, anche la riparatura devo fare perché c'è qualcosa che non va pure lì, questa l'ho svuotata completamente, l'ho spostata, allora questo già va bene, dai, questo già va bene. Ma c'è un letto, quando ti ho detto la nuova volta che hai pensato la lingua, ti fa attento, ho detto che sei scelto lo stilo, perché fa così, io per l'unica cosa, per la modifica, io ho fatto un foro nella base, una volta fatto la torta, ho fatto un foro piccolino, ci ho messo una vite autofinanziante e poi l'altro frugalizzante, basta, non se ne è più sceso lo stilo, è perfetto. Siccome sono il difetto di quella lingua, di quel tipo di lingua, se avessi avuto la lingua ubica sarebbe stato un discorso diverso, vedi, che non è più. C'era facevi altro che una volta installata, passavi lo spray, quello al silicone e il rame non sarebbe diventato verde, tutto lì, però cazzo ci va una cosa allucinante, cioè a Sassari non è che ci avevi molto guadagno, ma fuori sì, capito? C'avevo un guadagno veramente allucinante, le prime lingue che sono uscite, proprio le prime, c'era in pratica un giro solo di bobina, non tre. Ma io non posso, cioè, vale, non posso, cioè, avere paura che mi si bruci a tutte, ci attacco un coso, cazzo, ieri era raffica di vento, fa più di due, poi mi spariva il segnale, no, cavano in tutto, adesso piano piano quella si aggiusta, con la calma, si fanno tutte le cose che si devono fare, per il momento mi utilizzo questa, è nuova, sarà stata 10 anni dentro il magazzino, ci sarà stata. E allora, sto dicendo, le lingue sono fatte così, allora è arrivato Marco, io l'ho pensato a casa qua, gli ho fatto la modifica, dopodiché l'ho regalato a un amico che li ha usino, e gli ha regalato anche il baracchino, figurati tu, gli ha regalato il baracchino anche la Ringo, gli ho fatto quella modifica e usciva benissimo da lì da Ausio, solo che non lo usa quasi mai, più che altro è appassionato di roba antica, capito? E quindi l'antenna usciva bene, poi adesso non lo so, se c'è, penso che ci sia ancora perché è un tipo appassionato. Sarebbe già messo a porta, poi ci ha installato lì dello stilo un giorno il ripetitore, l'antenna di ripetitore, come si chiama quel baracchino, lo dicevo l'accidente, per la telefonia, dopodiché gli ho fatto la modifica, io gli ho detto guarda, quello lo installiamo, ho detto appena per la più avanti, metto una faffa, gli ho detto te lo installo lì, e così ho fatto. Adesso va parecchio, non lo vedo, sarà minimo 6 anni, 7 anni, poi da lui. Uno di questi giorni ci salgo, su a Usino, e lo sai, c'è il Covid, quindi la stessa non ti potevi spostare, quindi non ho più visto da parecchi anni. Anda bene, anda bene. Cappa, dai, sono contento, dai, che già funziona, infatti ho visto che l'amplificatore non mi scalda neanche più, cazzo, c'avevo una paura, meno male che non era attaccato a rimanere a notte, se no cazzo minimo me l'avrebbe fuso, cazzo, con quello smasso che ha dato che poi non si ripresa più, cavolo, magari stavo parlando ma avrebbe fuso tutto. Ah, mamma cugli, ho capito che cosa è, adesso bisogna smontare la spirale e farlo bene, bisogna, perché è cortocircuitata quella lì, bisogna punire la vidi, dove c'è quel coso nero, lì mi è successo, né? In quel punto non ho capito perché da una parte c'è il rivetto, dall'altra c'è la vite, non ho capito niente ancora, è la verità. Sì, ma te lo sto dicendo, quell'antenna che avevo anche detto, sta attento, ho detto che con l'antenna detto, sembra così, ma non... come la piazza, la prima pioggia, cosa del genere, quella specie di spugna che ci hanno messo, che sembra silicone ma non lo è, a primo vento come balla, balla, balla, se ne scende, infatti se ne è scesa la sua, deve sollevare il nuovo sopra, fargli la taratura, hai capito? E poi gli metti la vite, gli fai il foro, gli metti una vettina di quelle autofinanzanti, boh, e dopodiché li metti un silicone, li metti la stabilizzante, fa quello che vuoi e sei tranquillo, non ti dà più problemi l'antenna. Kappa. Con questo dai posso dormire, sono più tranquilli. Cazzo, quella là mi ha preoccupato molto. Cioè, cazzo, ma poi fuori mi si brucia tutto, no? Che cazzo, ho fatto la frittata, un casino poi. Ah, sistemiamo tutto, è meglio. Ah, questa palla grande qua. Questa. Ma rimane lì, saparava. Poi quella lì con calma me la metto a posto, me la metto. Oggi ho detto, no cazzo, oggi la devo tarare, me l'ho messa qua piano piano, ogni tanto la metto da appena appena, più in alto, poi la ritoglievo, cioè faccio tutta questa manovra, piano piano sono riuscito a trovare il punto esatto, presto forte a morte, cavolo, non si trovava lo stube con quella molla, non si trovava, me l'ha dato Fusaro, me l'ha dato. Mi gioco un po' sino che di buon'ora ci sono riuscito a metterla a posto. Hai fatto bene, se voglio fare la tua lingua invece. Te la scendi dove lavori, la installi, te la piazzi lì, te la piazzi. Quando non sai cosa fare, te la metti lì, te la metti quando se non ti chiamano per portare bombole, parli da lì. Con la telefonte, anzi lì va anche bene. Sei in basso. Sei tranquillo, è quello che ti... cioè, usi il baracchino, fa anche bene. Capo, è vero regnare, freddo, beh. Ah, che sono pure attaccato, freddo. Ui. Vabbè, con la calma, no, lì è un casino, lì non ci rimango, sto sempre in giro io consegnando. Ui, lascia perdere, Ali. Devo proprio, come si dice, devo andare, cioè, me la metto a posto, me la metto, poi magari me la ripiazzerò, però quell'antenna ieri me l'ho vista male, ho avuto parecchia paura, cazzo mi si bruciava il baracchino, poi i segnali andavano e tornavano, un casino, non ti dico. Poi mi ha fatto da capo oggi, da rendi, vendi, te, avanti, lasci a posto. Io lo so, ma comunque, per non stare a cosa, mi puoi anche farlo una cosa del genere, come ti ho detto io, deve stare lì dove lavori. Poi ti metti una telemagnetica nel come si chiama, vai a fare le consegne, vedi, o un antenino di macchina. Non è che ci voglia molto, ma se un apparato omologato, magato c'è, non c'è bisogno di un tubo, hai capito? Quindi, almeno la utilizzi quell'antenna, tanto il lavoro ce l'hai lì. Finché arrivi a 60 anni la voce la di lì a un certo punto, tanto qua a Gasdotto non ne fanno in Sardegna, quindi c'è di roba. Poi usala per quello, come fa quello che c'è lì da catalocchino, te la installi lì un'antenna e l'altra te la metti nel, come si chiama, lì, nella vostra carrozzella, vai e fai quello che ha usare il telefono. Kappa, no, non intendi tutti i movimenti e cose, no? Poi lì non c'è tempo neanche di farti una chiacchierata, non c'è tempo perché è un casino, è un casino veramente, perché lì, cazzo, lì devi bumpa foce, prendi con la mamma mia, sabato, domani c'è il bidà, domani prendi consegne. E vabbè, meglio così. Guarda che più consegne fai, più incassa lui e più e meno lo stipendio a posto, mi discorso è quello. Il brutto se non lo dovessi incassare, il tuo principale, allora sì che sei in mezzo alla bagna, diceva quello. 3KK. Ah, c'è un segnale piccolino, c'è. Chi è che vuole entrare? Avanti. Tu lo senti, Ale? Santiago 4. Vabbè, tu la lì senti le Canarie, quindi da dove sei tu, me? Se ti metti lì un paletto da 6 metri, non sai come parli lì, con gli spagnoli, tutti i giorni ci parli. Sì, capa. Io c'è un cazzigardo che è pure importante, manco Barunguru me ne basta a me. Oh, sono finiti quei tempi. Un ragazzo mi vai. No, non è importante quella, non ti preoccupare. Guarda, dove sei tu, lì è bello, la vita lì è bello. Dove ci sono quelle villette qua, c'è la stazione di lì, parlato tutti i giorni che altro qualcosa avessi parlato. Con gli spagnoli, avessi fatto di extra, avessi fatto ne lì. Cosa mi interessa? Fare di ex? Oh, mi lascia perdere. Qualcuno già lo sento ogni tanto, sì, stamattina lo sentivo, ma sicuramente noi gli arriviamo anche forte, gli arriviamo, Se tu vuoi fare un giro per sbaglio, con Baracchino ti metti all'ingresso del manicomio lì, in Verizzendo, proprio lì, in quel punto, che appena appena più alto dove sei tu. E siete gli spagnoli, delle Canarie, ma chiari, ci parli tranquillamente come se fossi da qui a Vere Pavattores. E già lo so, già lo so. E lì arrivano forti, arrivano. Anche nella zona dove sei tu già arriva abbastanza forte. No, lascia perdere, qua non arriva proprio un tubo, il discorso è quello, io sono coperto qua. Sembra essere in alto che sono aperto, ma sono dall'altra parte, capito? Sono stato lì e quest'ora sei stato parlando con gli spagnoli a mezzogiorno, alle 1, alle 3, alle 4, fino alle 8 di sera, alle 10. Siete gli americani tranquilli, ma sai come vanno sparati 9:20 a casa mia, lì. Manca quella zona, guarda. Stato lì dove abitavo prima. Stai tranquillo, ti avrei accompagnato sino a Cagliari, ti avrei accompagnato. Lì già pompavi, lì. Cazzo. Già me lo ricordo già lì. Cazzo, via, ci metti in gocco. Buon andando allora. Sto parlando con te. Cazzo, ieri non ero per niente rilassato, ma proprio per nulla. Beh, ce l'ho credo, lo spavento che ha pigliato da 1-1 a 2 stazionali. E pensato che te fosse sceso la tenente. Cazzo, anche lo smitter mi si è tornato a Barreto. Già me ne immagino. Aspetta un attimo, devo controllare su Buddu, che lo sto cucinando. Kappa, no, io ho già mangiato i nonghi. Io sto facendo per cena, uno per il cane, tre gambe e tutte le vesti sono mie, ce ne ho 10. Aspetta un attimo, mi controllo. Che? Già dura che c'ha a fare. Sì, la prima raffica del pollo è a posto adesso. È pronto. Aspetta, sono proprio i Brondi lì in Kiwi. Brondi che parla? Che si cagaiti? I PMR sono. C'è abbastanza movimento. Da quando l'hanno liberalizzato poi più che mai. Cioè senza concessione, capito? Anche roba medica, sto sentendo contagi di saturazione d'ossigeno e roba del genere. Ciao Antone. Ciao Marco, no, c'era anche il 118 adesso. C'era qui gli 88 stavo usando. Figurati. E poi non sono 88, ma sono Flong, mi sembra si chiama, te lo ricordi come ti avevo detto io, avevo comprato, ti avevo detto dei programmi, come tu mi avevi detto, non c'è un programma, cioè, era bravo, e quindi li sono in pratica. Ormai c'è una ditta di Sacchera che li fa, te li vende, già programmati, 5 per volta, capito, 50-60 euro, e quindi sta venendo, hai capito, per l'acquisto del Covid-19 lì dentro all'ospedale. Eia, ma quella volta che non ti avevo programmati era perché ero venuto sotto l'atto, tu non rispondevi al telefono, io avevo i minuti contati, ti ricordi, devo andare a fare la spesa, era una giornata piena, e poi allora sono dovuto andare via e tu eri da Giampiero ed eri senza il telefono, e quindi non me li hai potuti passare per programmarli. Già me lo ricordo. Sono quelli là, quelli che vendono qua per la Nieda, sono tali uguali, che poi sono autotomi in pratica, non è che siano. Ormai li stanno vendendo a Sacchera 10 euro l'uno, e siccome costano 4,20 euro gli 88, adesso convengono. Uno per volta costa 4 euro qualche cosa su AliExpress, quindi te ne sei fatto che guidarli, gli fai la programmazione, dopodiché prendi li dai, capito, 10 euro l'uno. Già programmati PMR. C'è una licenza che li sta vendendo. Su Facebook ci sono. Sono 5 per volta. Basta, non basta, Fontonio. 10 euro più con la spesa di spedizione. Caspita, 4 euro e tanti. Adesso controllo, sono curioso. Antonio, sì, anche liscio lo passi, se per questo, tu sei vicino. E qua, vai, così già va alla grande, va. Voglio la mia guida a fare. Bisogna farlo fare massa bene. Ora. Ha che ne ha dimontato il tutto, gas. Guarda che si attacco il 2002, non passa il piume. Se l'attacco più forte di buono, non passa il piume. Esatto. E vai. Ah, vero. Tu, attacca. Chi è? Avanti. Buonasera. Sì, buonasera. Come va con l'antenna nuova? Daniel. Sì, è un po' la 9.30. Ancora ne vuoi? Uia, questo bombolo. Ciao Daniel, compagnia di Pomponio anche. Ehi, ciao Marco, ciao Antonio. Ciao Daniel, ma cazzo, ma trasporti di uno non ne fate più, anzi non ne fate più, perché già prima mi ha chiamato l'altra volta verso le 7 qualche cosa di sera, dice noi non facciamo più trasporti a quest'ora di tu. Allora ho dovuto chiamare Massa Soccorso. No, Antonio, io ci manco da 4 mesi abbondanti. Non lo so. Ah, ho capito. Infatti ho detto a Giovanna, ho detto fai blu, la croce blu fai, chiamala. Ah, mi hanno risposto che non fanno più i trasporti, mi ha detto. Oh, allora, vabbè, detto, guarda, non mi ricordo, appena ho fatto dei numeri, nessuno mi ha risposto. Non fanno più consegne, finché non mi è venuto in mente che ho rovistato in mezzo ai documenti e ho trovato Massa Soccorso e mi ha telefonato immediatamente, veniamo subito, ci dicano dov'è, non c'è problema. E però da Pronto Soccorso ho detto, mi hanno... Rubato a Pomponio, Daniele. Fare il cambio delle cappette lì, da Pronto Soccorso l'hai dimesso. E l'hanno portato a casa, 40 euro se l'hai bigliato. Cazzo, allora, alla faccia. E anche l'altra volta avevi chiamato allora, ti ricordi? Che io sono venuto ed era un casino poi. Andava e già lo passi, Bombolì. Cazzo, vuoi svolgere a me, mica mi fa... Bombolì mi fa incazzare, mica attaccomi. Dai. Comunque era un furto, Antonè, 40 euro. Sì, devo sapere se dire Gian Piero, anche questo è l'altro, basta che se lo tengano 4 ore. Vabbè, giovane sono io, cazzo, devo ancora giocare. È quello grosso, e ti faccio vedere, ti faccio schiattare. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Gusto ci prende, guarda. Attacca, pompo, attacca, attacca. Mi si attacca il buffo 2002, me lo mangio come come la cena a cazzo col pollo. Antonello sta andando a regimi bassi, sta andando. Avete parlato in tre. Cosa, Antonè? Che avete parlato in tre. Ho detto che stai andando a regimi bassi tu. Regimi bassi, lì c'ho solo me. Guarda che si è attaccato. Già si vede. Mamma lui sta facendo lo stravagante. Finché non assaggia il buffo 2002 te lo dico io. Dai, dai, dai, dai, dai, attacca, attacca, attacca, che ridiamo. Oh, yeah. Vai, Marco, che ti hanno lasciato in parcheggio. Sì, sono qua che sto pulendo una cosa, un alimentatore dentro, è tutto impolverato. Un attimino. Ah, Antonio, ho trovato la ventola di ricambio, è per questo alimentatore switching. Ho messo la sigla esatta e mi dà proprio il ricambio sia da Amazon che da AliExpress. E quando posso gliela ordino. Ah, è ben bello. Ah, a proposito, non hai visto quell'aggeggio che vendono? Se lui finisce nell'aggeggio, non c'è bisogno che fai nulla, tu lo metti sopra e lui fa la sopra, tac, tac, sali, scendi, sali, scendi, visto vai? Aspetta, Antone, parla chiaro, cos'è l'aggeggio che infili nell'aggeggio e fa tac, tac? E sale e scende. E secondo te cos'è? Quando non c'hai l'onda, cosa usi? Mica la mano? Ci infili quello e fa tutto da solo. Ehi, che Maria, tu hai detto le scuole. C'è Maria Mano, è gratis, funziona. Facciamo in serie, dai. Ho abbassato la potenza. Sì, ma che picchia. Non le costa. Mi passi dal centro storico, mi passi la terza. Specialmente da Marco, sei vicino. E anche per l'Italia mi passi. Vabbè, dai. Troppo non ho le possibilità, però già me lo prendo una gigina, non ti preoccupare. Se no ho provato, tu vuoi il 2002 io con un altro aggeggio. Poi io sono giovane, io devo giocare, cazzo. Voi anche te, voi avete già giocato. Ingiocazzato, guarda io invece. Fatta che ti invaria. Sempre 2 watt sono lì. Sì, sì, sì. Che bello va. Oh no, Popo, 2 watt sono. A 2 watt. Sì, già vi credo domani già. Adesso io sono normale, sono tranquillo, tutto qua. Sto facendo scaldare e va via a freddare le mani. Daniele, ma sono 2 watt di pilotaggio. Ehi, a Marco. Ha detto giusto Daniele, sono sempre 2 watt di pilotaggio però. C'è il pilota automatico, lo vedi? Quando ti arriva Daniele a te? Aspetta, vediamo il segnale che qua io sto diventando ipovedente. Vai Daniele. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, la Peppina fa il caffè. Allora, così sei 9 più 25, hai lo stesso segnale di Bombolino da Liscio. Cava, cava. E posso aumentare, che mangia la radio, se aumento. Sì, infatti, aumentando il pilotaggio poi se ne va la radio, è finito lo scopo. E la zona tua qual era? Non mi ricordo la zona, Valdedda, cos'era? La mia o di Bombolo? La tua? Via l'Italia, a fianco dove l'avrò un po' io prima. Ah, scusa, no, sto confondendo con qualcun altro. Via l'Italia vicino a Usai, ho capito. Vicino a Cen, esiste ancora Cen, quello che vende forniture militari, un po' di tutto. Si conferma, già c'è. Guarda, adesso sono 2, 2 e 2. Sì, sì, sì, è sceso tipo, fai vedere. Da un po', 2-3, la Peppina fa il caffè. Sì, 9:15 più o meno, dai, questo smittere talmente, come dire, decimillimetriche sono le differenze. Però si vede che è sceso, eh? Bene, riprendete. Riprendete, non posso parlare per i prossimi 5 minuti. Scappa, dai. Sono contento. Una meraviglia, adesso sono più tranquillo. Uno di stazionaria ed va bene. Carere in avagata! Vedi, adesso che l'ho lasciato scaldare sta girando bene anche la radio. Che la tempo ferma. Conosco chi sa radio, non ti preoccupare. Ehi, aia, cosa Antonè che il bombolino ti ha schiacciato? Sto usando un FT 857 di come ascoltate adesso. Fai un passaggio più lungo, Antonè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aspetta un attimo. Ora. 1, 2, 3, 4, no, questo è un pulsantino così, scritto avanti, quindi FM. Va bene, guarda un po' così. Adesso va meglio la radio, Antonè. E a te, Anto? Sì, a buia. Oh, io che siete quasi tutti a fondo scala. Però questo, la devo dire la verità, mi arriva più forte di tutti. Soprattutto che in Viale Italia, lì, non so se è perché sia più vicino, o perché, non so perché se vedo l'antenna, non so. Però cosa mi arriva fortissimo. Come si chiama? Daniele, mi arriva un bel forte. Dovrebbe arrivarti più forte Marco, la verità, perché c'era di fronte, da dove abita lui al centro storico è più vicino in pratica, perché c'è al centro Piazza d'Italia, dopodiché vabbè, è creato il completo da gatto al cielo, ma è cose più libero, quello sono d'accordo anche io con te. Il centro storico basso lo piglia in pieno. Sì, sicuramente sì, soprattutto che lui è nei palazzi, ma cavolo, qua arriva fortissimo, arriva Daniele, ma forte però. E beh, c'è un grido, che se volante la mente si vive, che ci mancherebbe. Non c'era il terzo piano, c'era l'ultimo. Ha voglia, vabbè, poi anche lui da Novelli, adesso che è l'ultimo piano, ascolta in propagazione in Spagna, io non la sento per niente, per dire, lui non la sente invece tutti i giorni. Bisogna vedere, io qua non l'ho sentita stamattina, l'ho sentita la Spagna, ma non tutti i giorni, solo stamattina l'ho sentita. Di che altro senti le isole Canarie, che sono a ovest, capito? Alla parte di Alghero, se tu sei aperto dalla parte di Alghero, senti le Canarie per forza, non è che sia la Spagna proprio la Spagna, le isole Canarie senti, non senti altro. Adesso per un tempo che io non sento più le Canarie, ma le sentivo tutti i giorni, Santiago 5, Santiago 6, quella ragazza, forse è andata un'altra, adesso è sparita la circolazione già 2-3 anni, già te lo ricordi. Sarà un po' come noi, magari è diventata grande, non ce l'ha più, altri impegni, e chi lo sa. Appa, riprendi Daniele. Sì, sei stato già fatto altri impegni, ma è sempre in casa, 24 ore su 24, fino alle 8 e mezzo di sera, iniziava alle 8 del mattino, fino alle 8 e mezzo di sera. Evidentemente non lo so, ho abbonato tutto perché la pigliavano per il culo, cosa ne so io? Magari la trovi su internet adesso, a rompere le palle. Ehi Anto, mi stavi chiamando! Scappa, adesso di riprendere, a momento. Ehi, che stavo controllando lo spezzone qua. Capito? Che qua ci hanno insegnato le stazioni all'altra radio. Oh Daniele, ma il microfono è sempre quello lì, sì. Io gli ho messo un il gemello è quello della CTE, però questo è Midland. No, c'era l'altro, c'era di microfono, non vi ragazzo. E io uscivo una bomba, proprio quello. Usciva a cazzo con un vocione che era una cosa impressionante. Con me, vabbè, perché io ho la voce più grossa. Io ho uno della AM International. Sì, quello era il suo. Già ce l'ho, già ce l'ho. Guarda a me quella radio, quella lì, quella l'ho usata io molto spesso. Guarda a me che c'ha radio, cazzo, te la faccio girare come la marrocola. E io c'avevo la voce grossa, cioè c'ho la voce un po' più grossa della tua. Quindi a me mi usciva proprio il coso grosso dava tutta. A tutta beca dava le coccolte, ma non usciva da una bomba con me. C'aveva la voce pelosa. Ah, queste cose lo passa Gianfranco e basta adesso c'è l'altro e c'è l'altro cazzo a un certo punto per carità poi ti viene Paoletto Falcone e ti viene detto ah, ma conosci Gianfranco già lo conosci tu già quello che è col soccorso sardo che è in bicicletta sempre, già l'hai visto, già lo conosci, che allora c'aveva anche il baracchino anche lui, in via Grazia Deretta. Sì, già ho capito, certo. Con l'ambulanza H22. Sì, lui mi pare che appunto dorava. E vabbè, lui c'ha la pizzeria lì in via Grazia Deretta, lui e anche le sorelle, tutti e due. Facciamo una pizzeria e fai lei. Sì, c'è una di che non guida nemmeno. Ci ho capato quasi un anno io con le tappizze FN e fare le riparazioni con loro, cioè con lui, lo sai. Veniva quando abitavo in Vericino, veniva alle 8 e mezzo, diceva io Antone, portava le birre, non io non devo niente, portava le birre, la FN, la pizza, e mangiavamo sul danzato, mangiavamo. Che scappa. Avete fatto bene. Lui ha mandato un messaggio. Cazzo, avete anche una mente. Mi ha risposto. Ha avuto il telefono meglio. E viene a casa a prendersi il caffè. Ehi, saluta blog, per la vita. C'è un'amicizia su Facebook, figlio. Io lo so. Ci conosciamo da parecchio tempo con lui. A Luglia. Abitava prima il via 4 novembre, non so se abitava da solo, se si era trasferito con la moglie o se si era solo tu. Ho visto vicino a Fusola parecchie volte, abbiamo bevuto un paio di birre. Abita lì, a San Simplicio si è preso la casa, più giù di Portobello. Ah, ho capito. Sì, è tranquillo, almeno c'è un lavoro, almeno fa l'autista. Ambulanze, quello che prende vaffanculo, meglio di niente già. Meglio di niente. Ok, da. Bianco un attimo che devo scendere giù a fare due cose. Dai, ci sentiamo dopo, ok. Avanti o Daniele. Sai Daniele l'ho chiamato. Sicuramente dai. Io scendo un attimino che devo fare roba, ok? Sì, d'accordo, non c'è problema. D'accordo. Ehi, stavo usando l'altra radio, non mi sentivate. E quale? Oh, attaccate il 48, Antone. E non va in trasmissione. Donna, cazzo, ma quel 48 è una cosa allucinante quello che c'è tu. A volte andava, a volte non andava, a volte gli dava un colpo e si ripigliava. Ah, è vero che c'è anche l'altro. Ah, anche l'altro ha la stessa sincope. Aiutati. Tagli un paio di colpetti, qualche faccio contatto sensato deve avere. L'ho lasciato sano e poi ogni tanto riscende una sincope. Guarda che succede anche a me, nel terminando che ho io. L'ho lasciato sano, ma lo accendo un giorno e non mi ci può più accenderlo, ragazzi. Il potenziometro è incasinato. Quindi figurati, quando c'è un sacco di apparati, poi non li usi, ti fa quel difetto. o non esce in trasmissione, oppure deve stare mezz'ora a cazzo per fare qualcosa. Anche l'altro 7 mi ha fatto sentire qualcosa l'altra volta, cazzo, l'ho buttato lì curtica. Finché non ho salvato, c'era un passo contatto.